Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Questo applauso, cari amici, è per voi che state per accomodarvi alla tavola della bufala in tavola. Entrate, fatevi avanti e c'è posto. Intanto benvenuti. Ho aggiunto subito un posto accanto a me per Attilio Speciani, il nostro amico della bufala in tavola e non solo. Buongiorno, dottor Speciani. Buongiorno e pre-buon Natale. Pre-buon Natale anche lei. La spesa è fatta, il menù è deciso, non resta che mettersi ai fornelli e qui mi spiace, ma amici, non possiamo esservi d'aiuto perché vi staremo a guardare. Noi non abbiamo i numeri per insegnare a cucinare, ma possiamo dare qualche idea per mangiare bene anche a Natale, quindi indicazioni, trucchi, strategie, consigli per prendere da quello che porteremo a tavola tutto e solo il meglio, dal punto di vista sicuramente del piacere e del gusto, ma anche della salute. Quindi oggi consigli, dottor Speciani, per brindare, mangiare, bissare e ribissare con soddisfazione, con allegria, senza sensi di colpa e effetti collaterali. Io direi che si può, anzi si deve fare. Si deve. Io sono convinto, lo diciamo spessissimo, che in realtà si ingrassa, ad esempio, si sta male quando uno mangia male da Capodanno al Natale successivo. Se uno mantiene un suo equilibrio buono, le feste hanno il diritto di essere mantenute in maniera positiva e, come si diceva, brindare bene, mangiare giusto e qualità buona e gusti fantastici. Ed è quello che faremo oggi. E, tra l'altro, dottor Speciani, io devo confessarle che abbiamo parlato e sentito parlare talmente tanto di quello che mangeremo in questi giorni di festa che io sono già sazia prima ancora di sedermi. È curioso perché è come se non avessimo altro e meglio da fare che mangiare. Però sa che c'è questa cosa che dice che l'appetito viene mangiando e purtroppo questa cosa è anche legata, ad esempio, ad un certo tipo di eccesso di dolci. Perché chi parte, ad esempio, con un dolce sistematicamente con questo, in realtà si porta dietro dei chili che poi sono più difficili da smaltire, mentre un saggio abbinamento, ma partendo fin dalla prima colazione anche di questi giorni di festa, in cui c'è un bilanciamento corretto tra i carboidrati, i dolci che mangiamo e le proteine, che possono essere anche solo vegetali, mandorle, noci, nocciole, che non ma mancano. Questa, dottor Speciani, questa è la sua stagione. E poi è la mia stagione, io qui assolutamente entro in gioco come dottor Noce, sì. Bravo, ma oltre alle noci andiamo alle mandorle, tutto quello che... Perché? Perché la gente, sulle tavole del Natale, la gente pensa che mandorle, noci e nocciole siano caloriche. In realtà contengono un mucchio di proteine, almeno il 35% del loro peso, 30-35, è fatto da proteine. Che vuol dire che se io bilancio un dolce buono con noci, mandorle e nocciole, riesco assolutamente a avere un bilanciamento, un effetto sull'indice glicemico che è nettamente inferiore. Ed ecco che quindi lo gusto senza patirne gli quindi, effetti fantastico. Sul peso. Un dottore che ci dice: trattenetevi a tavola, alla tavola del Natale, quando arriveranno i dolci, mangiucchiate anche la frutta secca. Dovete farlo, ve l'ha detto il dottore. Ah, dico qualcosa in più, che magari se il dolce fa parte di una conclusione di un pasto in cui ci sono dentro anche delle proteine simpatiche, e non mancano le tradizioni oggi, giriamo per le regioni, le proteine ci sono, ma cominciamo fin dal mattino con questa cosa, cioè anche già una preparazione con un po' di, una prima colazione ben fatta, ci fa in modo di non essere affamati. Ci mette poi l'energia per vivere bene, ne abbiamo di cotte e di crude è una cosa certa, mangeremo parecchio, ma perché gli italiani hanno riempito le loro dispense e farcito i loro frigoriferi. Io mi ricordo che mia figlia diceva: mamma, quando andava a fare la spesa, com'è bello farcito questo frigorifero, quando vedeva traboccante di roba. Allora andiamo a così scoprire che cosa hanno comprato gli italiani per questo Natale 2017. In linea con noi abbiamo Antonello Oliva, che è responsabile nazionale dell'ufficio economico Confesercenti. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei la spesa l'ha finita oppure deve ancora comprare un po', qualcosina? Diciamo, qualcosa rimane ancora. Sì. Cosa deve... cosa deve comprare ancora l'ultimo? No, proprio lei, proprio lei. Sì, proprio io, le cose più fresche, diciamo, le cose che vengono usate all'ultimo minuto, insomma, sì, sì. È anche difficile programmare tutto in maniera dettagliata, no? E poi andando a comprare qualcosa che ci siamo dimenticati è l'occasione, esatto, anche per fare due passi. Ma esatto, sbirciamo un po' nella borsa della spesa degli italiani. Che cosa abbiamo comperato? Facciamo una sorta di hit parade dei prodotti più gettonati e acquistati. Chi mettiamo al primo posti? Guarda, intanto solo una piccolissima, un'unica cifra, che quest'anno diciamo i soldi che gli italiani stanno spendendo per imbandire la tavola del Natale sono un po' di più rispetto all'anno scorso, quindi questo è un dato anche, se vogliamo, positivo, no? Perché c'è un ritorno come dire al bene alimentare, no? Allo stare insieme a Natale, fatto anche, come dicevate voi poc'anzi, del mangiare insieme. Sicuramente tutta il Natale è da sempre orientato alla tradizione, e quest'anno viene mantenuta questo approccio. Sicuramente non mancherà su nessuna tavola il panettone. Certo, il quello panettone è un classico. Iniziamo dal fondo, il panettone. Il panettone è il prodotto che sicuramente è più diffuso sulla tavola degli italiani, dove sostanzialmente, anche secondo la nostra indagine, tutti lo compreranno. Poi fra i dolci dopo c'è il pandoro, ma insomma sicuramente il must è il panettone ormai. Sicuramente per quanto riguarda poi la vigilia e il pranzo di Natale c'è una certa differenza, no? Quindi, certo, la vigilia si festeggia al sud, e di solito è di magro, esatto, e il nord festeggia più il Natale. Noi nel frattempo ci fermiamo un attimo, ritorniamo subito dopo insieme con la hit parade dei prodotti più acquistati. A tra poco. K, dove sei? Sono sul Voyager 1. Ah, perché io sono sul Voyager 2. Lo so, tranquillo, ma stiamo andando tutti e due a Radio 24. Ma allora io sono fuori strada. Ho già superato Urano. E io ho appena passato Plutone. E quanto ci mettiamo a tornare sulla Terra? Ma l'importante è che si sentano le nostre voci, che racconteranno la storia del Voyager Golden Record. Il disco d'oro della NASA destinato agli alieni. E infatti il programma si chiama Una playlist per gli alieni. E sarà in onda il 24 dicembre alle 23 e il giorno di Natale alle 13 su Radio 24. No, mamma, basta con questi open day. Decidi tu che scuola devo fare. Io non lo so cosa mi piace studiare, ok? E invece è bene che i nostri ragazzi lo scoprano cosa piace loro studiare, perché è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore. Come districarsi allora fra licei, tecnici e professionali, fra open day, consigli orientativi e l'immancabile passaparola fra genitori sui WhatsApp di classe? Sono Maria Piera Ceci e domani alle 11 vi darò una mano insieme ad esperti, presidi ed insegnanti nello speciale Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sempre su Radio 24. La bufala in tavola. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Make a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. A caso o fuori, ma se possibile a tavola, la tradizione del Natale è sempre più enogastronomica. Ne stiamo parlando, siete nel posto giusto, nel luogo giusto, nella trasmissione giusta, la bufala in tavola. Gli italiani aumentano il budget per la cena della vigilia e per il pranzo di Natale. Ce lo sta raccontando Antonello Oliva, responsabile nazionale dell'ufficio economico Confesercenti. Dottor Oliva. Sì, dicevamo appunto il parade teorica dei prodotti, avevo citato il panettone sicuramente al primo posto e poi anche il pesce, perché sicuramente la vigilia è sicuramente dedicata al magro e quindi c'è una molta concentrazione. La cosa che emerge dalla nostra indagine è però un ritorno a scelte anche sia di qualità che salutistiche. Ah, vede, cioè, a forza di parlare, esatto, a forza esatto, di esatto, dire esatto, siamo esatto, quello che mangiamo, esatto, è quello che porti in tavola, condiziona la tua salute, e abbiamo in qualche modo convinto gli italiani che il gusto può abbinarsi alla salute. Sì. Oh. Infatti c'è una fortissima crescita, sia questo sia per quanto riguarda all'interno delle mura domestiche, sia dei prodotti biologici o chilometri zero, quindi una ricerca di prodotti collegati al territorio, sia anche vegani, per cui piatti che hanno, come dire, delle caratteristiche particolari, ma c'è anche un ritorno per chi passerà il Natale a casa alla riscoperta di gusti, come dire, di gusti antichi, quindi c'è un ritorno anche al fai da te, almeno una pietanza, un dolce della nonna fatto in casa, quindi c'è una ricerca anche di ingredienti che erano un po', come dire, caduti nel dimenticatoio, quindi c'è proprio, diciamo, un insieme di scelte, soprattutto all'interno della famiglia, che riguardano un po' una, come dire, la salute in senso lato, no? Quindi scelte più di qualità, più buona, mi piace questa voglia di buono e di tradizione. Sì. Dottor Oliva, grazie, buon Natale anche a lei, mi raccomando, finisca la sua spesa e cucini un po' anche lei. Si metterà i fornelli o si un po'. Grazie, sì. Buon Natale. A voi, buon Natale a voi, a tutti, grazie. Allora, noi continuiamo, ci prepariamo, volenti o nolenti, a questa sorta di maratona gastronomica, quindi mi raccomando, oggi in questa puntata, dottor Speciani, vogliamo dare consigli perché tutti noi possiamo arrivare motivati e preparati e attrezzati. Perché? Perché come in una maratona vera e propria, anche quella delle feste di Natale che si consuma e si snoda religiosamente intorno alle tavole imbandite, questa maratona ha delle regole e il vero atleta, e quindi siamo noi, sa come mantenere il passo, arrivare sano, salvo alla meta. Dottor Speciani, noi giochiamo d'anticipo perché lei ha già dato delle indicazioni, intanto il mattino all'oro in bocca anche a Natale. Il mattino è fantastico, è uno dei momenti cardinali, e se in tutto questo periodo, perché poi non è c'è solo il Natale o la Vigilia, ci sono tutti gli avanzucoli che in realtà stanno infarcendo il frigorifero anche poi successivamente, fare una prima colazione, quindi con risveglio, ben bilanciata, che non è solo il pandoro, il panettone, no, avanzato, certo, ma è un bilanciamento sempre di proteine, frutta fresca insieme. Ecco, quindi non facciamo l'errore di dire mangerò tanto a pranzo, vado dalla mamma a mangiare il pranzo del Natale, poi vedrò gli amici per il pandoro, il panettone e il brindisi, poi alla sera mangio gli avanzi, salto la colazione. Errore. Voi fatela, perché è anche una strategia per non ingrassare e affrontare questa maratona in pieno. Nicoletta, l'esempio è proprio quello del maratonetta, che è come se uno dicesse: ma come mai oggi è Natale, è così d'accordo con me, perché è Natale? Sì, è per questo, è un regalo reciproco. Fantastico. e il maratoneta che partisse a sprombattuto immediatamente, dicendo come sono leggero, corro, faccio i primi 10 chilometri al massimo, in realtà poi muore sulla parte finale, cioè non ce la fa più, poverino. Se partiamo bene, con una prima colazione ben fatta, in realtà gustiamo molto di più e evitiamo di diventare molto cicciotti alla fine di questo gruppo di feste, anche nei pasti che facciamo nel corso della giornata. E poi nel corso della nostra trasmissione chiederò al dottor Speciani, perché lui le conosce tutte, quei trucchetti per svicolare. Iniziamo a dirne uno che è fondamentale. Sì. Quando partiamo, si brinda, quello dal brindisi. Il brindisi mi piace. L'alcol va sempre consumato con oculatezza. Quando si beve, se noi beviamo direttamente a stomaco vuoto, in realtà abbiamo un arrivo dell'alcol nel giro di pochi istanti al cervello e anche al sangue, quindi favorisce l'accumulo. Se ci mangiamo prima un 5-6 mandorle, 3 noci, un pezzettino di prosciutto, qualsiasi cosa che abbia una valenza di tipo proteico, fermiamo e rallentiamo e questa cosa viene assorbita con molta più lentezza. Giochiamo un po' in questa giornata un po' d'anticipo, ma anche d'astuzia, quindi sfruttiamo l'altro lato del cibo. Proviamo a creare delle coppie, delle combinazioni, delle allegre sostituzioni. Aggiungiamo anche un po' la nostra fantasia, il nostro buon senso. Non dobbiamo avere confini. Vi porto in Cina, vi porto in Giappone, ho qua accanto a me un nuovo amico del Bufale in Tavola, è Andrea Calvo. Andrea è un tecnico ed un educatore alimentare, ha fatto della sua più grande passione una scelta di vita, la sua più grande passione è l'Oriente. Ciao Andrea. Esattamente, ciao, ciao a tutti. Una scelta di vita e anche matrimoniale. Anche matrimoniale. Ma c'è il suo vantaggio in questo, perché avendo una suocera che non parla la mia stessa lingua, il rapporto si mantiene integro, perché non parliamo e quindi andiamo d'amore d'accordo. Ecco, questo è un altro suggerimento che diamo alle persone che ci stanno ascoltando e che hanno già il muso, perché dicono adesso mi tocca vedere la suocera e poi, esatto. Ecco, tu sei già un fortunato. Sì, cioè, scegliete bene la moglie, ma meglio la suocera. Andrea, io ti ho invitato alla tavola della bufala in tavola perché voglio che tu porti sulle nostre tavole il meglio che può arrivare dalla cucina e dai paesi lontani come la Cina e il Giappone, che tu conosci e frequenti da anni. E quindi vorrei che tu ci insegnassi ad utilizzare prodotti piuttosto che bevande per alleggerire questi pranzi e queste cene luculliane. Sì, per esempio possiamo accompagnare i dolci con del tè al matcha, che è un tè verde, sì, che tra l'altro è il tè delle cerimonie, viene usato in Giappone nelle cerimonie religiose, codificate tra l'altro nel disciplinare buddista. Ha delle forti proprietà digestive, mm-hmm, e quindi aiuta l'assorbimento anche dei grassi, e quindi a fine pasto, luculiano, quello, sì, che ci prepariamo da a mangiare tutti, potrebbe essere un buon mezzo per aiutare la digestione. Per esempio c'è anche il ravanello giapponese cinese, che è una sorta di carotone grosso, più lungo e più spesso, che aiuta ad assimilare i grassi, tra l'altro, e abbassa anche i livelli di colesterolo. Quindi dopo 3-4 kg di cappone ripieno, magari 2-3 fette di rapanello, almeno con la coscienza siamo a posto. Dottor Speciani, che cosa ne dice di questa incursione? Un dato fondamentale: masticando un po' di frutta e di verdura, perché poi ci facciamo riferimento a delle attività enzimatiche, ad esempio dal tè matcha piuttosto che non dal rapanello piuttosto che altro. Il fatto di masticare e insaporire libera gli enzimi che ci sono dentro, significa che abbiamo la possibilità di ottenere davvero il beneficio, perché se in realtà noi mangiamo facendo degli inghiottimenti obbligatori e non mastichiamo, a parte che non sentiamo il gusto, non possiamo dire alla nonna com'è quest'anno il panettone piuttosto che le cose fatte, che è sempre una delle lotte natalizie per capire com'è il patè, com'è il panettone, se è stato più burro o meno burro eccetera, masticando si liberano gli enzimi che sono fondamentali per la nostra salute. Andrea, molto interessante, sì, anche per così inserire nel nostro menù delle feste, se non proprio quello della vigilia o del Natale, insomma da tenere in casa, specie in questo periodo che è la stagione fredda, quindi malattie da raffreddamento, ma giornate particolarmente generose anche di calorie, sono i funghi. Sì. Ecco, funghi di cui noi sentiamo parlare, di cui abbiamo sentito parlare e anche nominare, esaltare anche le virtù terapeutiche, ce li descrivi? Sì, i più diffusi che possiamo trovare facilmente nei negozi a Milano, in Italia, sono di due tipi: orecchio di Giuda, che sono coltivati principalmente in Cina, ma vengono elaborati nei piatti anche giapponesi e del tutto sud-est asiatico, e i funghi shiitake, quelli che si trovano, tra l'altro ci sono anche delle coltivazioni biologiche di funghi shiitake freschi anche in Italia da poco. Sì. Sono fonti di proteine vegetali importanti. Sì, fonti di proteine vegetali importanti, quindi una dieta vegana, vegetariana, si innescano bene, soprattutto hanno grosse fonti di sali minerali, potassio, calcio, fosforo, abbassano i livelli glicemici e favoriscono la digestione, quindi li possiamo usare sia tra virgolette crudo in insalate piuttosto che in zuppe, piuttosto anche, perché no, un risotto ai funghi porcini orientali potrebbe essere un'idea per un piatto diverso, per qualcosa di innovativo. Ecco. È una sorta di Marco Polo 4.0. Andrea è andato in Cina, si è innamorato. E sono tornato. È tornato e porta i prodotti. Esatto. Ecco, con tutta la storia di questi prodotti aggiunge. Noi oggi lo proponiamo perché tutti, giustamente la tradizione, torna sulle tavole degli italiani, come ci ha ben raccontato il nostro ospite Antonio nell'oliva, ma noi la proposta di oggi è facciamo delle combinazioni. Se arrivano da lontano aggiungiamo quel tocchettino che... Ma dottor che bello, Speciani. Che bello, sì, anche perché tutto quello che è l'insaporimento, ad esempio, o l'utilizzo di gusti diversi può portare davvero a degli stimoli papillari che poi si trasferiscono anche all'interno dell'organismo facendo del bene. Cioè se impariamo... La gente sta male perché non riesce a digerire a Natale, perché ha mangiato troppo. Se riusciamo a mettere in moto questo meccanismo di stimolare e facilitare la digestione, aiutiamo un mucchio di mali di testa del pomeriggio. Infatti noi dobbiamo correre la maratona ben attrezzati e assolutamente preparati per goderci queste feste, senza sensi di colpa, senza effetti collaterali. Noi ci fermiamo e ritorniamo subito dopo insieme. La bufala in tavola. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chime in jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. Ci stiamo preparando per la maratona natalizia insieme al dottor Speciani, ad un nuovo amico della bufala in tavola, Andrea Calvo, che ha portato un pizzico di Oriente. Sì, ogni tanto ci vuole. Ogni tanto poco, ci vuole. Poco ma buono. Dottor Speciani, riprendiamo la nostra maratona. Abbiamo detto, attenzione, fate sempre colazione, anche in questi giorni di libagioni, di pranzi abbondanti, generosi, calorici. Questa è la prima regola. Non toglietevi nulla. Giusto. Aggiungete, dottor Speciani. E qui l'aggiunta è interessante, perché intanto si ricollega a quello che ha appena detto Andrea, che è piacevolissimo e che vale a tutte le latitudini e quindi è interessante da gestire. Abbiamo le nostre spezie, ad esempio, hanno una valenza sempre di tipo stimolante digestivo, riequilibrante, per cui imparare a gestirsi dei sapori, che sono poi quelli su cui le nonne o le suocere dibattono dicendo quest'anno il raviolino è fatto in un certo modo piuttosto che no, piuttosto che il sugo, sono degli elementi che in realtà fanno parte di una tradizione legata allo stimolo della parte digestiva. Su questo però, perché stiamo, quindi divertiamoci a sentire, a dibattere un po', a stimolare qualche spunto di riflessione su come fare i cibi anche per l'anno prossimo. Abbiamo, proprio perché è una maratona, un invito non solo a usare le mandibole e masticare, perché l'ho già detto prima, è il secondo, prima colazione, masticare, cioè assaporare il cibo, e il terzo punto è, per favore, camminate, correte, pedalate, muovetevi, divertitevi, prendete i bambini, portateli fuori per una mezz'oretta, fate fare un giro, cioè muovete gli intestini in modo anche fisico, concreto, perché quando ci muoviamo apriamo quelli che sono i canali dello zucchero. Significa che anche il dolce mangiato successivamente, che è un po' poi la parte potenzialmente delle terre, in realtà viene assorbito in maniera profondamente diversa e rischiamo, evitiamo di avere dei danni. Abbiamo detto, dobbiamo divertirci. Il movimento fa parte nel contesto della giornata, non vuol dire andarsene via dal pranzo di Natale, ma nel corso di queste festività ricordiamoci che muoversi è una delle parti fondamentali per continuare a gustare con gioia quello che stiamo preparando. Quindi muoviamoci, muoviamo anche la mandibolina, mastichiamo bene a lungo, e poi ci sono anche delle cose che possiamo evitare, che non portano nulla, tranne che una sorta di appesantimento, di stordimento, ad esempio quello di continuare a smangiucchiare tra una portata e l'altra il pane, grissini. Mangiate, prendete del bel pane integrale, mangiatelo, ma poi a un certo punto, ecco, che lasciatelo da parte, dottor Speciani, perché è più quello che noi mangiamo senza rendercene conto che ci appesantisce di quello che noi invece gustiamo. E poi passo ad Andrea, che sicuramente ci darà anche qualche indicazione. Lasciando spazio al pane buono, che ha il suo valore, la sua importanza. E noi suggeriamo sempre quell'integrale. Il pane anche... buono è quello, non è che ci siano tanti santi di mezzo. Per cui va anche bene, se la tradizione è in Italia, ogni regione ha il suo pane, io li adoro tutti, forme diverse, sono anche belli da vedere sulla tavola del Natale. Perfetto, e quindi qualcosa deve passare. Ho visto passare. Che mi ha fatto passare anche questa. Sì, visto, perché è Natale. Perché è Natale, poi ritorniamo all'integrale. La prima colazione del mattino toglie questa fame un po' nervosa, che è quella che ci fa smangiucchiare costantemente pezzettini di pane, anche attraverso dei pasti che hanno delle valenze valenze positive molto buone. Quindi facciamola questa prima colazione, perché ha un significato di rallentamento della fame nervosa, che è quella per cui sbocconcelliamo, rovinandoci alla fine il gusto del secondo, terzo, quarto, quinto, della sesta portata che riusciamo ad avere in questo Natale o in questa vigilia. Tra una portata e l'altra sarebbe bene non aspettare tempi lunghissimi, perché si chiacchiera, ma alla fine tutto questo si traduce in una digestione difficile. Ma vorrei sentire se anche Andrea ha qualche suggerimento da darci per la nostra giornata del Natale, per la nostra maratona gastronomica, enogastronomica. Sì, ecco. Parlando di maratona, senza necessariamente arrivare in Cina o in Giappone, ecco, correndo... Ecco, cosa, questa l'hai già fatto tu? Sì, no, sono andato con un aereo, comodo, seduto, tranquillo. Ecco, io magari mi permetterei di dare un consiglio: tra una portata e l'altra magari inserire due alghe, perché aiutano sempre, parlando di assorbimento, come diceva il dottore, e aumentano anche il senso di sazietà. Quindi sarebbe un po' un trucchetto per assaggiare un po' di tutto, ma in quantità minore. Ma come le prepariamo e quali... tu mi dici alghe, ma è un mondo. Sì, allora, le alghe wakame sono quelle che come sapore noi occidentali abbiamo un rapporto un po' più immediato, perché rispetto ad altre tipologie di alghe che hanno un retrogusto un po' più marcato, queste sono un po' più facili per il nostro palato, non abituato ad assaggiare. Possiamo aggiungere alle... Ma che faccia hanno queste alghe? Sono simpatiche, sono riservate. Sì. Sì, possiamo aggiungere, nei ristoranti solitamente quasi tutti i commensali hanno assaggiato almeno una volta nella vita le famose alghe wakame, goma wakame. Dottor Quindi, Speciani. Sì, sì, confermo. Conferma, e confermo anche che sono, positive e buone. Devo dire che nella tradizione italiana io do l'elemento di riserva. Certo. Cioè, per tutti quelli che in realtà l'idea di vedersi durante il pasto di Natale o di Vigilia un piattino di alghe, che sono buonissime peraltro, suggerisco tra una portata e l'altra invece l'utilizzo ad esempio di un tè matcha con le foglie di menta, che hanno un'azione digestiva, è come rifarsi un tè alla menta fondamentalmente, che è molto più accettabile dalla cultura italiana, e quindi così diamo. Per quelli che sono propensi a viaggiare anche sulla via della seta e quindi a gestirsi questa cosa, è un'ottima indicazione. Ma mettiamo anche qualche alternativa per consentire una digestione anche a quelli che probabilmente vedendo un piattino di alghe potrebbero spaventarsi e dire conosco i miei polli, lavoro sulla piano nutrizionale con però le persone da tanti anni, ma si prova. Quest'anno sperimentiamo, perché abbiamo sentito parlare della tradizione, noi la conosciamo bene, ma tra una portata e l'altra, quindi Andrea Calvo suggerisce le alghe, queste alghe un po' dal sapore occidentale. Una sfida. Piace? Una sfida. Facciamo mangiare l'alga alla nonna. Ecco, ci provviso. La nonna viene sempre presa di mira, perché è anche suocera la nonna. E qua dite nonna, ma chi dice nonna dice suocera. Sì. Però potrebbe essere. Potrebbe essere, quindi alga, tè, ma io tra il tè e la bollicina, cioè non c'è storia, dottor Speciani. Sicuramente adesso lei non è che mi può far bere il tè, ma lì coso, a Natale, su. Potrei raccontare che c'era un ristorante. Lei beve il tè a Natale, dica la verità. Il tè a Natale tra una portata e l'altra no. Ah, lo consiglia a noi per fare quello no, che... No, io suggerisco una possibile alternativa a salutare, dopodiché... io però ho fatto la prima colazione, ho mangiato le mie madre, le mie noci, le mie nocciole, sono pronto e ho anche gustato le alghe in altra occasione magari, però ci siamo. Allora noi andiamo naturalmente anche così a festeggiare un Natale che si allontana un pochino forse dalla tradizione, ma è sempre un Natale ricco, generoso, gustoso, salutare, e andiamo a farcelo raccontare da un grande sportivo che è in linea con noi, Mirko Bergamasco. Ciao Mirko! Ciao, buongiorno a tutti! Allora, il tuo Natale è un Natale vegano. Il mio Natale è un Natale vegano, ma non è solo vegano, a Natale, naturalmente. Un'alimentazione, no? Vegano, insomma, in famiglia non siamo tutti vegani, quindi in conseguenza c'è un po' di tutto. Però il mio, la scelta mia di mia moglie, quella sarà ovviamente di seguire delle ricette vegane o comunque senza animali o derivati animali. Quindi prima hai detto diverso dalle tradizioni. Penso che sarà comunque nella tradizione, perché avrà all'interno tutti i prodotti che vengono dalla regione, soprattutto con alimenti di stagione, quindi diciamo che la tradizione rimane, solo che sarà una tradizione reinterpretata. Esatto. Dai. Però con cose che si mangiano tutti i giorni, che possiamo mangiare tutti i giorni, chiunque può mangiarle, perché la cosa bella della dieta vegana, diciamo, è quella che tutti ne possono mangiare. Certo, Mirko, sai che mi stavo pensando che negli ultimi anni le nostre tavole, quando più anche alla tavola della bufala in tavola, tante persone, tanti stili alimentari, per cui inviti un amico e dici devo stare attento e lui è vegano, poi inviti l'altro amico, ma lui invece è celiaco, quindi senza glutine, poi arriva Andrea Calvo che mette un po' di oriente in tutte le cose, adesso ad Andrea devo mettergli due alghette, insomma, per una persona che deve organizzare il pranzo della vigilia, il pranzo di Natale, diventa impegnativo. Voi quanti sarete a tavola? Voi sarete tu e tua moglie ati vegani, e poi altri mangeranno invece un po'. Amico che sarà vegano, poi ci saranno, diciamo, una decina di persone tra genitori, i nipoti, i fratelli, queste cose qua, insomma. Saremo più o meno una quindicina, dai. Dai, per festeggiare. Senti, Mirko, ma tu sei un po'... Andrea ha amato l'Oriente, un po'... è stato stregato dall'Oriente, che è diventato dal Sollevante, anche per amore, posso dirlo. Esattamente, no? Ecco, che bello. Anche tu un po'. Dietro delle scelte importanti c'è sempre una donna. Diciamo che tutto è nato, l'informazione, la consapevolezza è nato da un infortunio che ho avuto, e cercavo un qualcosa per recuperare velocemente. E ovviamente mia moglie mi ha fatto vedere, mi ha fatto capire che esistevano altri sportivi vegani, e sulle testimonianze degli altri sportivi ho capito che poteva essere una via interessante per poter recuperare velocemente, per tornare in campo più velocemente possibile, in modo tale da poter riprendere il mio lavoro. Man mano che andavo avanti, perché diciamo che il diventare vegano è un percorso, nel senso, non è che cambio dieta e divento vegano, no, certo. È un aspetto di uno stile di vita. Oggi per me vegano è uno stile di vita, non è soltanto una dieta. Quindi diciamo è stato un percorso di consapevolezza su differenti ambiti, che può essere l'animale, l'ambiente, su me stesso, il corpo, queste cose qua. Certo, è stata una scelta un po' a 360 gradi, non solo un cambiamento a tavola, ma proprio un po' di approccio alla vita. E tu, come tanti altri atleti, ti senti in forma, forte, i riflessi sono belli, svegli e pronti. I principali cambiamenti, comunque, le principali cose che ho sentito è sicuramente un aumento dell'attenzione. Quando andavo in campo o quando ascoltavo l'allenatore, determinate cose, l'attenzione su rimanere più attento, non avere magari, sai, magari facevi allenamento dopo il pranzo che era un po' pesante. Sì, anche io quando mi alleno a rugby dopo il pranzo mi sento un po' affaticato. Sì, ti devo dire. No, ma Mirko, ma mi vuoi dire che cosa preparerà, perché Ati è un po' che è tua moglie, è un po' la mente di tutto, certo. Non per togliere nulla a te, ma in effetti è lei che ti ha aperto la strada, e anche lei che preparerà delle cose squisite che posterà anche sulla sua pagina. Mirko, cosa mangerai? Beh, diciamo, allora ti leggo più o meno quello che lei ha fatto. Così lo sente, comunque, lo sentono troverete anche il dottor Speciani e Andrea Calvo, e vediamo. Va bene. Dai. Beh, allora, ci sono un frisbee di antipasti che partiamo con una bruschetta, con una crema di fagioli del Papa e cavolo nero croccante. Mi viene già fame. Delle polpettine di miglio e tampinambur con una crema fredda di finocchio al cumino. Ma qua è alta cucina, Buono. Quindi ti ha preso anche per la gola. No, beh, quello sicuramente. E poi finiamo con una vellutata di zucca e castagne. Come vedi, sono soprattutto alimenti comunque del territorio del Veneto, o comunque della terra, e che si trovano oggi, perché comunque sono degli alimenti invernali. Passiamo a un primo con un risotto alla zafferana, radicchio di Treviso e noci. E aspetta lì, perché facciamo una pausa, così ci racconti che cosa mangerà di secondo. E poi sentiamo se il dottor Speciani e Andrea Calvo vogliono, come si dice, no, qua a Milano, metterci il becco e aggiungere qualcosa. La bufala in tavola. Siamo tornati, siamo a tavola, quasi a tavola. No, non siamo neanche a tavola, stiamo sbirciando la tavola che Mirko Bergamasco appronterà per le feste di Natale. Mirko, in realtà il merito è tutto di tua moglie Ati. Comunque noi siamo arrivati, dopo un risotto allo zafferano, siamo arrivati a una tavola vegana, siamo arrivati al secondo. No, no, no, non è risotto allo zafferano, è risotto integrale allo zafferano con le noci. Lì c'è il bello. Lì c'è il bello. Radicchio di Treviso e noci, perché il radicchio di Treviso oggi, insomma, soprattutto in questo periodo, è molto orgoglioso. E poi voglio dire, vuoi mettere quella nota di rosso che a Natale lo zafferano e l'oro? E quindi anche Paolo, che è il nostro tecnico di oggi, mi guarda come per dire: Nico, vedi dove arrivo con il colore. Mirko, arriviamo al secondo. Secondo sarebbe un nasci parmentier di sedano arrapata al tartufo con tofu affumicato e funghi flambea all'amaro Montenegro. Un po' più complicato. Ci fai cadere la mandibola anche al dottor Speciani, ho visto che sta cercando di prendere appunti, ma non ce la fa. C'è un tocco di francese, visto che mia moglie è francese anche, quindi. Quindi di conseguenza abbiamo messo questo asci parmentier e finiamo con un dolce che era una pera al vino, che è un classico, però mette, diciamo, tutti. Ecco, tutti. Io di tutto questo menù saprei fare probabilmente le pere al vino. No, non rida così, dottor Speciani. No, guardi che io me la cavo, ma poi posso andare a leggermi le ricette, perché Ati le pubblica le sue ricette. Sì, le pubblica al momento in Facebook, nella sua pagina si chiama Ati Safavi, e poi prossimamente stiamo sviluppando anche un sito internet sul quale ci potrà essere un sito internet dove, diciamo, ci sarà una consulenza per chi vuole avvicinarsi a questo mondo e per chi, anche il mondo sportivo o non, e chi vuole una consulenza anche per aprirsi in nuovi orizzonti e capire determinate cose. Noi vedi, stiamo aprendo un Natale bello, siamo partiti dal nostro Natale delle tradizioni, un Natale sempre della tradizione ma vegano, siamo andati un po' in Oriente perché dall'Oriente abbiamo preso dei prodotti buoni che aggiungono sicuramente sapore, esaltano quello dei nostri piatti, ma ci aiutano anche a digerire. La tavola unisce, questo è un messaggio che noi non vogliamo dare solo a Natale. La tavola unisce, non deve dividere. Grazie a Mirko, salutaci Ati. Grazie a voi e buon Natale soprattutto. Buon Natale, e guarda, noi verremo volentieri a pranzo da voi. Quando volete invitarci, noi ci trasferiamo, con piacere. Molto volentieri, tanto è un menù per le feste natalizie, quindi si può fare anche l'ultimo dell'anno volendo, non è un problema. Tre posti, mi raccomando. Grazie, tre posti, perché tu, Andrea, cosa porti, scusami? La simpatia. Qualche alga, se volete. Qualche alga noi non ce la facciamo mai mancare, ma anche vorrei anche quel frutto che io tra poco mi mangerò, quella specie il di pomelo. Pallone, sì, che è un po' il macio degli agrumi. Sì, è il bisnonno. Il bisnonno macio, perché è bello, forte, corposo, bello corposo. Non è acido, quindi lo possono anche mangiare i bambini. Ed è ricco, ricco veramente di proprietà nutrizionali importanti, vitamine, vitamina C, vitamina B, insomma. Sì, sì, un però, concentrato. Però posso dire, perché conoscendo le varie regioni, ad esempio, mi ha stupito quando avevo scoperto la pompia, che è sarda, che è in realtà similare. È molto simile, sì, sì, ed sì. È di un'antica tradizione, nasce solo in alcune parti della Sardegna. Esatto. Cioè, andando, a me piace il concetto adesso, questa trasmissione di oggi è bella perché ha raccolto i diversi Natali. E siamo fantastici. che regia, che mente, Mirko! Vengo presto a trovarti e mi porto anche loro due. Grazie. Senti come mangio. Allora, noi ritorniamo alla tradizione, e la tradizione porta in tavola il pesce, sia per la cena della vigilia che negli altri giorni di festa, Capodanno compreso, per proprio chiudere in bellezza tutto l'anno. Nel centro-nord vanno forte anguille, branzine, orate, cernie, che si prestano anche delle preparazioni molto semplici, si cacciano in forno, fanno bella figura e sono buone, dottor Speciani. Che, come dire, ce la fa anche lei, Nicoletta. No, ma no, ma perché lei pensa che... Invece, guardi che io cucino bene. Io lo so, bene, lo so perfettamente. Vuole per che mi metta qua, le faccio subito due alghe. Si è sminuita qui quando sappiamo che sa fare da mangiare molto bene. Perché poi non hai detto se queste alghe si preparano facilmente o no? Perché io ho un'alga tra sono un pranzo secche. E l'altro, sono secche. Quindi acqua, si reidratano. Basta. E noi facciamo una bella figura. Una bella figura, eh? E perché due secondi. Due secondi e... poi qualche aromino sopra che è perfetto. Giusto. Perfetto. E vanno bene anche col pesce? Assolutamente sì. Bene. Comunque, al nord, al centro e al sud il pesce diventa protagonista. Per il sud la vigilia, la cena della vigilia è rigorosamente di magro. E allora qua voglio farti lavorare, e quindi l'Andrea Calvo, che è tecnologo alimentare. Allora, cerchiamo di fare un pochino chiarezza, perché è importante portare il pesce a tavola, ma è anche importante saperlo maneggiare, conservare, trasportare, e soprattutto fare chiarezza su alcune luoghi comuni, su alcune false credenze che potrebbero costarci caro. Mi riferisco, dottor Speciani, ne avevamo già parlato io e lei, si ricorda, sul pesce che viene marinato con olio, con il limone, e che per questo sembra igienicamente sicuro. È corretto? Basta il limone? Assolutamente no. Ecco, la prima bufala. Assolutamente no. Cioè, il pesce consumato, se si vuole consumare crudo, deve essere necessariamente abbattuto. Tra l'altro è norma di legge, quindi non si scappa. Quindi 24 ore a meno 20 gradi. Nel caso in cui, ma sono casi sporadici, dovessimo avere a maneggiare del pesce fresco non abbattuto precedentemente, dobbiamo metterlo nel nostro congelatore di casa per 36 ore a meno 18. Posso fare una domanda? Ma se io vado dal mio pescivendolo e vedo del pesce crudo, io gli devo dire lo voglio mangiare crudo? No, non può vendere pesce crudo, deve essere abbattuto per legge. Per legge, quindi io questo rischio non ce l'ho. Assolutamente. Ci sono, ad esempio, alcune GDO che stanno vendendo, specificando che vendono un pesce che è già stato abbattuto a posto. Sì, sì, infatti, con l'abbattitura basta. Ma se io vado a comprare le acciughe, a me piacciono cotte, faccio una tortiera d'acciughe, adesso ormai mi devo vantare perché devo dire tutte le ricettine che... e volessi invece metterle con il limone e marinarle, non posso farlo, devo prima metterle in... Basta un minuto di cottura, un minuto in cottura e poi si possono marinare. La cottura è necessaria nel assolutamente caso in cui non venga, il prodotto non sia stato precedentemente abbattuto. Quindi, però per gli amanti del pesce crudo, se abbattuto, ci sono persone che vendono, strutture che vendono il pesce già abbattuto, abbiamo delle soluzioni che ci consentono di mangiare subito, di riprovare il gusto delle classiche acciughe all'ammiraglia che, con cui io sono diventato grande quando ero piccolo. Ho capito che lei si vuole diletto, fare, si diletta e soprattutto vuole così fare una sorta di competizione con l'amico in cucina. Assolutamente una sì. Volta, una volta, lo so, ma stia lì che forse per il prossimo anno ce la faremo. Parliamo anche delle vongole, cozze, dei molluschi in genere, che sono così buoni. Andrea, attenzioni, precauzioni, avvertenze? No, i molluschi, essendo poi alimenti bivalve, quindi assorbono e hanno una sensibilità maggiore alle intossicazioni marittime, è necessario mangiarli cotti. Basta crudi, comunque no. Che nel momento in cui si aprono con il calore, è sufficiente quel calore? È sufficiente, sì. Assolutamente sì, una tant'è che meglio, è consigliabile acquistare molluschi chiusi, certo. Non quelli semi aperti, è meglio scartarli, quindi fuoco vivo, padella, coperchio, 2-3 minuti, quando si schiudono si aprono, si possono mangiare tranquillamente. Salmone affumicato, dottor Speciani, è un classico delle feste, posso dire come lo mangio io? Sì, sì, voglio perché saperlo. Così adesso, perché mi ha detto che praticamente so fare solo l'alga rinvenuta dell'Andrea Calvo. Lui, no. Lui l'ha detto, allora, io lo sostengo io alto. Prendo salmone affumicato, lo accompagno con degli anelli sottili di cipolla. Bravissima. E capperi. Fantastico. E io preferisco quello. No. Olio e limone. Il burro non lo uso. Pensa col che salmone. Invece il burro crudo, che sta riprendendo valore anche dal punto di vista della scienza, è un ottimo elemento. No, io lo mangio il burro, ma non lo mangio col salmone. Lei invece me lo consiglia. Io devo dire che su un pane integrale con un pochettino di burro e il salmone col suo capperino, la cipolletta, io qualche gusto di piacere lo provo. Con una salsa di noce a accompagnare, abbiamo fatto. Bellissimo. Auguri, buon Natale con tutti i consigli che il dottor dottor Speciani, Andrea Calvo, ma anche i consigli di tutte le puntate della Bufala in Tavola. Spero che voi possiate festeggiare, brindate anche un po' alla nostra salute, sempre con le nocciole o le mandorle prime, per una favore. Manciatina e un'alghetta, sempre lì, un'alghetta, ecco. E pensate, se volete anche un menù vegano, vi mettiamo naturalmente il link della pagina di Ati, la moglie di Mirko. Che dire, auguri, raccontateci se volete scriverci il vostro Natale o mandarci delle foto. Io vi manderò i piatti che cucinerò a Natale, saranno molto pochi però. Le alghe sicuramente, salmone affumicato con cipolle e capperi. E poi adesso devo andare, perché devo andare a cucinare. Grazie dottor Speciani, grazie, auguri a tutti. Andrea, grazie a voi. Grazie. Auguri a voi.